Allora, 1, 2, 3 e via. Sfaderito, il sì, regista. Il regista ce l'ho io. Ce l'ha te. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, direttamente dalla Galleria San Lorenzo in via Isidoro, in centro di Montevarchi, ringraziando il solito santo subito Stefano Neri per la concessione di questi spazi. Fumino, chi abbiamo davanti a noi questa sera come ospite? Buonasera a tutti, stasera abbiamo un ospite particolare, un ospite importante perché ha veramente da raccontarci tanti aneddoti, tante cose accadute molti anni fa. È un uomo conosciutissimo in città a Montevarchi, è un uomo che è soprattutto un uomo di sport, ma questo ce lo racconterà dopo via via facendo il nostro volo alla ricerca della montevarchinità, che stasera è diretto dal sapiente Ettore Scola, che ci onora della sua regia. L'ospite di stasera è Mauro Vannelli. Buonasera Mauro. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Bene Mauro, la prima domanda te la faccio io. In sede di presentazione, preparazione della puntata, ci raccontavi che sei stato probabilmente il primo a fare una radiocronaca per una partita del Montevarchi. Sì. A Montevarchi fu fondata una radio da Giulio Gamberonci e Bolognesi, fu fondata questa radio e si chiamava Radio Telecentrale, di cui io ero responsabile per lo sport. Quindi mi trovai subito a fare delle radiocronache, ma furono degli anni bellissimi, perché la radio allora non era come oggi, molto tutto più semplice. Dovevamo portare il telefono da casa, andare a cercare collegamenti avventurosi, e quindi con il Montevarchi ho avuto anche delle cose belle che racconterò, perché sono degli aneddoti molto importanti che hanno fatto la fortuna sportiva, fortuna di cronista mia, ma anche di aver portato il nome di Montevarchi in tutto il mondo. Tra l'altro iniziamo subito da uno e io bramo di sapere nei dettagli. Eri anche fotografo, eri anche a Genova, hai immortalato il famoso gol di Piero Vencini in Genova-Montevarchi. Certamente, che poi andò alla Gazzetta, fui attorniato da tutti i giornalisti che volevano il mio rotolino, perché allora non esistevano le schede o la chiavetta, ma c'era il rotolino. Quindi ero, come fotografo, ero andato dietro la porta dove tirava il Montevarchi, ma il Genova, che era una squadra veramente forte, dato che vinse il campionato, l'unica partita che l'abbia persa con il Montevarchi, e io ero andato dietro dove tirava in porta il Montevarchi, e non venivano mai su perché erano sempre bloccati sistematicamente ai limiti dell'area di rigore. Quando vidi Piero arrivare con il pallone, oddio, questo è il momento, infatti scattai due o tre fotografie bellissime del gol di Piero e poi l'apoteosi finale. E quindi tutti i giornalisti, da cominciare dall'Ansa, la Gazzetta dello Sport, ad altri, tutti volevano il rotolino e io già un po' al rialzo, da commerciante giocai al rialzo, e quindi vendei questo rotolino all'Ansa, che poi lo passò alla Gazzetta dello Sport, e la fotografia del gol storico del Varchi e Battaglia di Genova andò in tutti i giornali. Quindi, grazie alla tua fotografia, i Montevarchi, in quell'occasione particolarmente Piero Vencini, hanno fatto davvero il giro d'Italia e forse anche più in là, perché era un fatto storico sportivamente parlando. Ma non solo la foto a Genova, eri anche reporter, ad esempio, nello spareggio di Firenze contro la Pistoiese. Unico reporter accreditato ad entrare in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. E raccontaci un po' anche questa storia, poi magari entriamo nel dettaglio del periodo della partita a Genova e questa di Firenze, per saperne di più proprio dei montevarchini in quei momenti. Però raccontaci adesso, per cortesia, com'è andata, che tu eri l'unico reporter in campo. Allora collaboravo ancora, avevo ancora la tessera di giornalista sportivo, perché avevo lavorato per molti anni con il giornale del mattino di Firenze, per molti anni, per circa 7-8 anni ho collaborato a livello professionale, facevo la Fiorentina soprattutto, poi feci anche altre cose. Però quel giorno lì decisi, non so perché, decisi di andare allo stadio a Firenze a fare questo servizio fotografico, e l'unico fotografo che poteva entrare era accreditato, ero io, perché avevo la tessera di giornalista sportivo, e altri due di Pistoia. Ovviamente anche lì fu molto interessante, perché la Pistoiese era uno squadrone e stava dominando veramente la partita, e quindi io mi misi dietro la porta dove tirava Montevarchi, ovviamente, e quando vidi arrivare l'azione di Martinello sulla sinistra che stava venendo giù, che poi mise il pallone al centro per Scarpa, che Scarpa proprio di sacco fece questa magnifica rete e portò il Montevarchi in Serie C, e allora fu una per me fu una gioia molto bella, anche perché poi andai anche negli spogliatoi a fotografare tutta la cosa, e quindi è stata anche una delle prime foto a colori che avevo fatto alla squadra del Montevarchi, con lo sfondo della tribuna gremita, circa 25.000 persone a vedere la partita, quindi fu un avvenimento bello. Questo fu il là della mia passione della fotografia al Montevarchi. E poi ci sono tanti episodi, non tanto come fotoreporter, perché poi abbandonai la fotografia, ma come cronista della radio c'ho da dire molti episodi, molto belli, molto interessanti. Allora partiamo con questi episodi, raccontacene almeno uno. Allora, quello che mi ricordo più di tutti, la più bella, è stata quando ci fu Montevarchi-Catania. Per Montevarchi-Catania c'era a Buenos Aires un nostro montevarchino, chiamato soprannome era Giugiola, che non lo conosceva, era grande, grande uomo, appassionato soprattutto della radio. Mi chiamò e mi disse: so che vai a fare la radiocrona del Montevarchi, Montevarchi Catania, io ho 2000 siciliani ma che vogliono sentirla, io mi collego con te, non so con che alchimia lo fece, perché era grande radioamatore, e radunò 2000 siciliani in un cinema di Buenos Aires per ascoltare la nostra radiocrona. E quindi io feci la radiocrona, mi ricordo molto bella, perché descrissi l'ambiente dove eravamo, il Prato Magno, Brilli Peri, chi era Brilli Peri, insomma la città di Montevarchi, portai insomma Montevarchi in Argentina attraverso la mia voce, la portai in maniera giusta. E quando fece il gol, che Napolitano segnò sul calcio d'angolo, tra l'altro fece un gol bellissimo, il porto era Sorrentino, il padre dell'attuale Sorrentino che già Serie A, e quindi fu bello descriverlo, magari per loro non fu tanto bello ascoltarlo, ma per me fu molto bello ascoltarlo, perché fra l'altro Napolitano fece un bellissimo gol. Ecco, e lì fu veramente, per me fu veramente bello, perché sapevo che dall'altra parte dell'oceano c'erano ad ascoltare 2000 persone interessate, quindi anche lì portare la voce e Montevarchi dall'altro capo del mondo. Peccato pensare a dei siciliani emigranti a Buenos Aires che si immaginano Montevarchi, è pazzesco. Io personalmente questa storia non sapevo neanche se era mai giocato in Catania, quindi figurati. Sì, no, fu veramente bello quello lì. E poi per ricompensarmi, c'ho anche un altro scoop bellissimo, per ricompensarmi quando venne in Italia, mi ringraziò, c'era a Reggello il Napoli in ritiro con un certo Maradona, che era arrivato da allora fresco al Napoli e tornato allenato. E lui era molto amico sia di Maradona che di altri personaggi importanti dell'Argentina. E mi ricordo che c'era una ressa per poter intervistare Maradona e nessuno riusciva a intervistarlo. Lui lo chiamò e ci appartammo dove non era la ressa dei giornalisti. Diego, e io intervistai per la prima volta, forse fui uno dei primi a intervistare Maradona di quando era arrivato in Italia. E che emozione si prova ad intervistare il dio del calcio in quel momento? Sai, era un dio nascente, e quindi molto probabilmente se l'avessi intervistato 2 anni dopo sarebbe stato ancora più emozionante. Però fu molto disponibile e molto gentile con me, anche perché l'amicizia con l'amico Gualdani era notevole, quindi fu molto bello. Che poi tra l'altro, ora questa cosa esula dalla questione Montevarchi, però interessante a livello anche di storia del calcio, perché comunque era una delle prime partite di Maradona con Napoli in Italia, perché era un amichevole, e ne avevamo già parlato in una delle nostre puntate precedenti con Parmigiano, che raccontava che lui la sera prima aveva visto Maradona fuori da l'albergo dove erano in ritiro, che palleggiava con un'arancia, se non sbaglio. E te, Moro, ti ricordi che ti disse Maradona? No, ma lo intervistai soprattutto, era arrivato in Italia, di Napoli, parlai soprattutto della parte folcloristica, ecco, diciamo anche della, ma soprattutto questa registrazione che poi l'ha detta alla RAI, perché la RAI non aveva potuto intervistarlo, quindi era una radio di Montevarchi che aveva fatto l'intervista a Maradona, insomma sempre sotto il nome di Montevarchi. E gioie e dolori dell'essere un cronista del Montevarchi, nel perché si incontra la grande passione degli sportivi quando si vince, come avrai incontrato probabilmente a Genova, a Firenze e in tante altre occasioni, ma come ci raccontavi in sede di preparazione della puntata, si incontra anche la passione, fra virgolette, al negativo dei Montevarchini, vale a dire, ci fanno pagare un po' care a volte certe cose, certe piccole cose. Tant'è che la tua carriera di cronista, durata ben 3 lustri, 15 anni, e si chiude, diciamo, con un episodio un po' bizzarro, accaduto proprio in tribuna stampa a Montevarchi. E se ti va di raccontarlo anche agli ascoltatori di Radio Big World. Certo, volentieri, perché mi dispiace, perché insomma tante volte il tifo crea brutti scherzi, quindi dopo un brutto scherzo. Stavo commentando la partita Montevarchi-Pontedera, che fra l'altro Montevarchi vinse 2-1, in occasione del primo gol stavo descrivendo questa azione d'attacco del Montevarchi, quando Tonino Stilo, raccolto la palla sulla destra, dice: ecco, azione del Montevarchi d'attacco, parte Stilo in contropiede, ancora Stilo entra in area, tiro, rete, splendida rete dell'ex San Giovannese Stilo, appunto Stilo giocava l'anno avanti nel San Giovanni, e quindi dice: ex San Giovannese, lungi da me. Purtroppo avevo un po' di marchio San Giovannese sulla pelle, perché venendo da San Giovanni da lavorare, lavoravo 18 anni a San Giovanni, ero fotografo anche ufficiale del San Giovannese, quindi ero un po' marchiato, diciamo, tra virgolette. Ci fu qualcuno, non gradì questo ex San Giovannese, quindi venne alla tribuna e mi aggredì. Fortunatamente il maresciallo Papa intervenne, anche con la sua mole sulla stazza di uomo, riuscì a sedare tutto. E da quella volta preferì abbandonare il microfono, perché molto probabilmente è stato meglio che mi fosse dedicato al calcio, alla traiana dei ragazzi, che non andare negli stadi e avere un po' l'incolumità. Però ho passato degli anni eccezionali, ci sono tanti gli episodi che mi ricordo di aver vissuto nel Montevarchi, quindi è stato molto bello. Ma anche tecnicamente, ora ti faccio una domanda tecnica proprio rispetto anche all'essere cronista in quei tempi lì, perché per me è già incredibile pensare che qualcuno da Buenos Aires è riuscito a captare la frequenza o quello che potesse essere per rimbalzare in diretta la tua telecrona. Ma tecnicamente quali erano le difficoltà e magari anche le evoluzioni che poi sono avvenute nei 15 anni in cui ti hai fatto il cronista per la radio, in quel mondo lì, in quegli anni lì? Quando facevamo le radio per le cronache per San Giovanni e Montevarchi, dovevamo portare intanto il telefono da casa. Non c'era il telefonino, perché non esisteva il telefonino. Dovevamo portare il telefonino con circa 200 metri di cavo di telefono, trovare la casa più vicina, e quindi... Ma un episodio bellino, questo me l'ero dimenticato, fu a Olbia. A Olbia mi ero portato il telefono, Montevarchi e Olbia, era benvenuto allenatore, e quindi non c'erano case, perché lo stadio di Olbia è in un posto piuttosto angusto, dove era, c'era solo un appartamento che era di un dirigente, quindi da quella casa si poteva vedere, ma l'unica finestra che vedeva lo stadio era il gabinetto, quindi io ho dovuto fare l'attacco e commentare la partita dal finestrino del bagno. Avevo i piedi uno sui bidet, uno sul sul coso e dal finestrino vedevo lo stadio e commentavo. E fu bellino perché quando ho aperto la radio, ho aperto Amici Sportivi, buon pomeriggio, vi parlo dalla tribuna stampa dello stadio di Olbia. E la mia tribuna stampa era proprio il bagno delle cose. E la gente passava di sotto la strada, guardava, perché insomma aveva anche dei dubbi sulla mia... C'era il rischio di cadere, insomma. E quindi anche quello è stato un episodio molto bellino. Che poi, a parte questo episodio, che comunque, se ho capito bene, la casa era di un dirigente, ma regolarmente te andavi con il tuo telefono da casa, suonavi a un appartamento di un qualcuno e gli dicevi: posso attaccare? Magari settimana si prendeva contatti, e però bisognava andare lì, e quello per, durante la partita non poteva telefonare perché io inserivo il mio telefono, poi ci chiamavano dalla radio e quindi facevamo queste radio prona. Eravamo dei pionieri proprio. È un racconto molto romantico dal mio punto di vista del fare radio, cioè oggi noi facciamo radio con un computer e 3 microfoni, basta una presa di corrente e tutti possono fare radio. Ci aveva raccontato Chimentelli della sua avventura per Radio M, del viaggio in treno con il ripetitore che occupava praticamente tutta la carrozza. Con Vannelli siamo andati ancora più indietro e dal mio punto di vista è stato veramente un racconto molto romantico di fare radio. Ma ti è mancato fare radio? Ti è dispiaciuto avere smesso? Ah, indubbiamente, perché dopo la radio ho fatto anche la televisione, che TV1. La prima trasmissione, questa negli annali di TV1, la prima trasmissione in diretta della Domenica Sportiva l'ho fatta io. E allora TV1 trasmetteva da un prefabbricato, era un prefabbricato di 3 metri per 2 e si trasmetteva da lì dentro. E la prima sera che siamo andati in onda dicendo tutti i risultati, la Domenica Sportiva si fermava lì nei risultati, però già davamo i risultati in diretta, e questo circa 25 anni fa, dare i risultati in diretta non era cosa da poco, ecco. E quella fu la prima, avevo i piedi accavallati, tutti i fogli sopra, vedo che non c'era nemmeno posto per un tavolo, ma sono dei ricordi che oggi fare televisione è molto più semplice. E come c'erano dei grandi collaboratori all'inizio, da Giutino Bonci a Marrubini, Chimentelli venne dopo e lo trovai a Radio M, quando andai a Radio M. Ma poi abbiamo conosciuto anche tantissimi personaggi. E questo volevo sottolineare, che andando negli stadi e portando la voce del Montevarchi e di Montevarchi, credo che la città anche ne avesse guadagnato molto, perché in quegli anni lì Montevarchi era una cittadina ancora più fiorente, molto, molto industriale, c'erano molti artigiani, poche industrie ma molti artigiani e molti commercianti, quindi era una città molto organizzata, molto movimentata, e quindi portando questa voce di Montevarchi in tutti gli stadi, credo che ce ne guadagnava anche la città. Ecco. Succedeva anche a noi che eravamo ragazzi a metà anni 90, quando il Montevarchi giocava in Serie C, capitava di andare al mare d'estate e parlare con qualcuno che ti identificava come Montevarchi, sì, quelli che fanno la C1, ad esempio, ci si è giocato contro, quindi è successo anche a noi. Probabilmente calcare i campi a scena nazionale più ampia anche della Serie D, che in questo momento, per grazia di Dio, stiamo calcando, però porta sì il nome della città ad essere conosciuto in giro. Ma continuiamo la nostra cavalcata e andiamo di passo in passo, avviciniamoci anche a magari più ai giorni nostri, perché ovviamente ora, per chi non conosce Mauro, che ci ascolta, che non è valdarnese, ma insomma Mauro non ha bisogno di presentazioni in tutto il Valdarno, perché presidente di calcio di una società che è in piedi da tantissimi anni, che fa dignitosamente le sue categorie e anzi ultimamente sta avendo anche dei buonissimi risultati. E Mauro si è trovato da presidente di questa società anche avversario del Montevarchi e l'ha pure battuto. Due volte, bravo Julian. Come ci si approccia alla fine, da tifosi però anche presidente, a trovarsi a giocare contro? Tanto direi che ero molto emozionato, perché giocare con la mia Traiana al Brilli Peri è stata un'emozione non indifferente, abituato a giocare con i soliti spettatori, 10-12 persone venire allo stadio, e credo che in quella partita lì mi fu detto che c'erano circa 800.000 persone a vedere la partita, perché c'era anche questa curiosità. Montevarchi Traiana era una cosa anomala per Montevarchi, per la Traiana era un onore, ma per Montevarchi era una cosa un po' anomala. E quell'anno lì facevamo la seconda categoria, l'anno avanti avevamo vinto alla Traiana, c'era Arcadio allenatore, avevamo vinto 2-1, e poi lo stesso risultato si ripeté al Brilliperi, dove erano molti anni e Montevarchi non perdeva, ma avevamo una squadra molto forte, tant'è che vincevamo il campionato noi l'anno lì e poi il Montevarchi l'anno dopo, di seconda categoria. Quando si andò sul vantaggio di 2-0 non credeva ai miei occhi, insomma, era una soddisfazione enorme battere una squadra da un passato importante, e io tra l'altro avevo vissuto quel passato, quindi fu una soddisfazione enorme. E siccome il volo dell'Aquila rivela anche dei misteri, riveliamo un mistero per i montemarchini, per i nostri ascoltatori. Alla fine la Traiana aveva fra i suoi soci onorari anche persone che non erano proprio il signor nessuno. Non faccio anticipazioni, Mauro, insomma, raccontaci tu questa storia di come è successo. Sì, Lezio Losi era un nostro socio onorario e non mancava mai di partecipare alle nostre conviviali quando avevamo dei partiti, perché il premio partita nostro era ogni tanto facevamo una cena, e Lezio con la signora Filis non mancava mai a questa cena, anzi non solo non mancava, ma la signorilità di Lezio era anche di portare fiori alle cuoche e alle signore della Traiana, quindi siamo stati sempre legati non solo da amicizia personale, ma anche da amicizia sportiva. E però, Mauro, com'è stato possibile per te, da un certo punto di vista, smettere con le cronache, smettere con il giornalismo sportivo e dedicarti a fare il presidente di una società di calcio? Io sono nativo della Traiana, tanto sono traianese doc. Poi mi sono trovato a chiudere, dopo aver lavorato 18 anni a San Giovanni, mi sono trovato dal 1969 a essere qui a Montevarchi, dove io scelsi per pura convinzione commerciale la città di Montevarchi di mettere un'attività, perché credevo in questa città, credo in questa città che ha un nome importante, quindi è un passato tradizionale sia del commercio che dell'artigianato, e quindi credevo in Montevarchi. Dovevo scegliere fra San Giovanni e Montevarchi, non ebbi dubbi a scegliere Montevarchi, e forse ho fatto bene. Dunque, una mattina ci siamo alzati alla Traiana, questi ragazzi che giocavano nella piazza dove si davano, decidemmo di fare un campo sportivo. Ormai tutti i traianesi, allora erano tanti, oggi sono pochissimi, sono una comunità di 40-50 abitanti. Allora radunai un po' tutti i contadini, chi aveva la ruspa, chi aveva il trattore, chi aveva la zappa, chi aveva, e decidemmo di fare il campo sportivo. E facevo il campo sportivo. E dirò di più, anche sempre collegando con Montevarchi. E una mattina, che mi ricordo era la festa delle Palme, c'era Montevarchi in ritiro al Pirrose, e c'era Nardino Costagliola, c'erano ancora tutte le fotografie nella sede, Nardino Costagliola che era allenatore del Montevarchi. E anche questo è un episodio molto bellino, molto curioso e legato. E io andavo a fare anche le fotografie ancora al Montevarchi, perché si giocava di sabato, si fu, dico, guarda Nardino, vieni, domani mattina facciamo la messa nel campo sportivo, vieni, ti do, e gli detti dei ramoscelli di olivo, portali alla squadra, vediamo. Erano molti anni che non, molte domeniche il Montevarchi non riusciva a vincere, e quindi si sentò la scaramanzia, come c'è nel calcio, gli detti dei ramoscelli augurali a Nardino. Giocavano con il Teramo, quella partita lì era Montevarchi-Teramo, gli detti della Moscella Urali, torno allo stadio, io il giorno venne a fare il servizio fotografico allo stadio Montevarchi, Montevarchi perse 1-0 e la sera tornava a Nardino Tagliolo. Quando lo ritrovai a Coverciano qualche mese dopo, mi ricordo, se non mi dare più ramoscelli d'olivo, perché non fu esonerato proprio di quello. Perché non funzionano, insomma. Quindi decidevo di fare questo campo sportivo, inizialmente abbastanza ultra, ma fatto in maniera molto leggera. Però si iniziò un settore giovanile abbastanza importante, tutti i ragazzi della Traiana, quindi andavamo su, io ho 50 anni, quest'anno ho 50 anni precisi di quando il presidente si è interrotto, quindi facendo giocare tutti i ragazzi. Poi l'anno dopo si cominciò a trovare anche i ragazzi da San Giustino, avevamo tre squadre, giovanissime, adolescenti e allievi. Poi decidemmo di fare, arrivavamo al punto di fare la terza categoria, e arrivò ultimi e c'era Stefanelli, ex giocatore di Montevarchi, venne a fare l'allenatore, perché facevamo anche la terza categoria senza allenatore, però lui venne come allenatore e giocatore e arrivò ultimi. E festeggiamo l'ultimo posto in classifica e anche lì andiamo alle cronache della stampa nazionale, perché la squadra festeggia l'ultimo posto in classifica. Poi da lì poi abbiamo iniziato in maniera più forte e ci siamo trovati seconda, poi siamo retrocessi, poi abbiamo ritentato, abbiamo vinto tre coppe provinciali, tra l'altro due finali allo stadio d'Arezzo in notturna, molto belle, quindi abbiamo dei ricordi bellissimi. Oggi ci troviamo invece dopo tanto lavoro, dopo tanta passione, abbiamo rilevato tutta la Teranovese, si chiama Teranova Traiana, e praticamente con il titolo della Traiana, dopo sei anni di inattività, abbiamo ricominciato a Teranova a fare i calci. In due anni facciamo la promozione, anno andiamo lì a fare i playoff, quest'anno soffriamo per i playout, quindi un anno sì, un anno no, vediamo, però abbiamo tante partite da giocare. Quindi la mia passione per il calcio è innata, io mangio pane e calcio, fortunatamente è venuto due figlie, non sono venute due maschi, però avevo fatto anche la squadra femminile, avevo provato per due anni, abbiamo fatto anche il calcio femminile. Ci siamo divertiti, anche lì abbiamo incontrato, sempre parlando di Montevarchi, aveva fatto i primi anni, una volta aveva fatto la squadra femminile, ci trovavamo a fare una finale, sempre Montevarchi e Traiana, a Terranova in occasione di una festa dell'Unità, mi ricordo, ci fu una finale all'antistadio, dove questa novità di calcio femminile, si tratta di circa 40 anni fa, più o meno. E questa novità di calcio femminile, di torneo giovanile, che si arrivò in finale, noi Traiana e Montevarchi era organizzatissimo, arrivarono tutti con le tute, tutti per venire a levare, noi insomma eravamo un po' all'arrembaggio, chi arrivò prima, chi arrivò dopo, la borsa della Coppa, la valigetta non ce l'avevamo ancora, però vincevo noi 4-2, mi ricordo, alla fine vincevo questo torneo con tutti i ragazzi, poi non ce la facevo, ho anche da lavorare. Fulgido esempio di come la passione unita alla gestione oculata e sana delle cose possa addirittura durare per 50 anni e non solo durare, vivacchiare, durare e crescere facendo le cose fatte in un certo modo, con certi scopi, in una certa maniera. E dopo che il Montevarchi ha passato in anni recenti, anni bui da un punto di vista di gestione proprio societaria, ma che oggi si ritrova di nuovo gestita da persone di Montevarchi, che la passione le comanda, le manda proprio a fare questa cosa qua. Dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza alla fine di presidente, come valuti il momento storico del Montevarchi? Pensi che ci sia futuro oppure comunque sarà molto molto difficile? Ma guarda, fare calcio oggi è molto difficile, è avventuroso, anche perché ci sono, è cambiato tante regole, però devo dire una cosa, io ho seguito e ho parlato con questi dirigenti, perché ora farò una rivelazione, forse molti non sanno, farò una rivelazione scoop. Quando il Montevarchi cercava il titolo di seconda categoria, i dirigenti del Montevarchi vennero a cercare me per dargli il titolo sportivo, quindi come diventò Mercatale, Audax, come vuole, doveva diventare Traiana. Così. E francamente i miei dirigenti, i miei collaboratori, usarono un po', ecco, se si vuol dire, di questo lasciare il titolo, cedere il titolo, non esistere più, quindi vendere il titolo, e quindi non fu, però vennero a cercare me perché eravamo amici, quindi già ci si conosceva. questo è un preambolo che ho fatto, perché da lì è rinato il Monte Varchi, perché io sì, ho vissuto delle storie del Monte Varchi in cui la professionalità e la bravura dei vecchi dirigenti, mi riferisco a Lezio, mi riferisco a Farosi, mi riferisco a tanti altri che erano insieme a Scala, con il quale eravamo anche nel Rotary insieme, quindi abbiamo parlato tanto. Quindi era un momento in cui Monte Varchi aveva industrie, aveva capacità manageriali non indifferenti, si poteva fare anche un certo tipo di calcio. Oggi fare calcio è molto più difficile. Io credo però che questo gruppo di dirigenti che sta lavorando in maniera molto, molto semplice ma professionale, credo che non si può inseguire il risultato oppure vincere i campionati anno per anno. Anche se partendo dalla seconda categoria, avendo fatto un excursus molto bello fino ad arrivare al Nazionale Dilettanti, ecco, credo che in questo momento la categoria per il Monte Varchi, se riescono a lavorare con tranquillità, con serenità, in un paio, due, tre anni, credo che la città di Monte Varchi, che risponde in maniera eccezionale alle sollecitazioni dei dirigenti, ma è anche attaccata ai suoi colori, alla sua storia, a tutto quello che è stato del Monte Varchi, del Monte Varchi Calcio, quindi credo che nel giro di due o tre anni Monte Varchi potrà tornare veramente a farsi molto importanti. Beh, auguriamoci che questo progetto, questa prospettiva, questa previsione possa essere realizzata, sarebbe un piacere per tutti. A maggior ragione servirebbero però probabilmente delle strutture diverse o delle strutture rinnovate per poter sostenere un eventuale salto di categoria dai dilettanti o comunque dalla Serie D, che sia adesso ai professionisti. Secondo lei, Mauro, lo stadio Brilli Peri avrebbe bisogno di un restyling? Sì, ti dirò di più anche, guarda, che mi ricordo tutte le innovazioni fu fatto allo stadio di Monte Varchi, furono fatte in virtù di una mia intervista che avevo fatto a Giuliano Sili in una maniera molto avventurosa in una camera di un albergo ad Alghero, mi sembra. Dunque c'era le elezioni a Monte Varchi in quel momento lì e io stavo intervistando Giuliano Sili perché la domenica dopo era l'ultima partita di campionato, c'era Monte Varchi Carrarese e gli dicevo, stavo intervistando Giuliano, e gli dicevo: ah, Giuliano, domenica arriverà il Monte Varchi, arriverà la Carrarese, mi sembra non ci siano tanti spazi, ci sono da fare dei lavori. E Giuliano era un tipo impulsivo, partì in quinta, proprio facendo una dichiarazione non regolamentare, perché durante il periodo elettorale non puoi fare politica, e quindi lui veì contro l'amministrazione comunale, tanto più che con un processo poi tra l'altro. Però tra parentesi fu rifatto tutti gli spogliatoi nuovi e fu fatta un'aggiunta, una sistemazione migliore alla tribuna. Quindi sì, ci fu questo processo, questo errore di Giuliano, impulsivo in questa, come era lui. Però gli impianti ne manca sempre uno, che se ne facessero altri 5 ne mancherebbe sempre uno. Però diciamo che Monte Varchi ha anche la fortuna di avere un campo a Levane, un campo a Mercatale, può usufruire dell'antistadio. Quindi per una città come Monte Varchi, in questa categoria, credo che le strutture in questo momento non mancano. Certo che se facesse un salto di categoria, allora sarebbe una cosa, le strutture comincerebbero a venire. Però ricordiamoci che lo stadio Brilli Peri non ha poi, sì, potrebbe essere fatiscente magari nel suo insieme, però come terreno di gioco Brilli Peri è un bel, non è secondo a nessuno, e quindi magari di dover rifare un altro stadio e poi andare a cercare un impianto, quello terreno buono, io lo vedo, io abito, le mie finestre di casa sono su Brilli Peri, anzi spesso i miei riposi pomeridiani sono disturbati anche dal continuo lavoro che fanno questo stadio, e quindi non lo vorrei distruggere questo stadio. L'idea di fare un altro impianto sarebbe... L'architetto Failli aveva fatto un progetto quando si stava parlando della unificazione tra San Giovanni e Monte Varchi, di fare un impianto. Aveva fatto Sergio Failli, aveva fatto un disegno che mi ricordo sempre di una sportiva Valdarnia, e aveva fatto questo impianto sportivo dove l'attuale ospedale ora, e che forse sarebbe stato meglio un bello stadio. Aveva fatto la linea centrale sulla linea di confine, metà stadio di San Giovanni e l'altra metà su Montevarchi. Era un progetto molto bello, ma poi non si concretizzarono. Io partecipai anche a certe riunioni di personaggi sia di San Giovanni che di Montevarchi, perché c'era ventilato questa idea, ed poteva essere un'idea bellissima, però il calcio, si sa, è fatto di passione, è fatto di agonismo personale, di cittadino, e quindi va bene così, insomma. Tra l'altro mi viene in mente questa storia della linea di metà campo, metà a San Giovanni, metà a Montevarchi, pensando che ora con l'ospedale messo più o meno in mezzo c'è gente eletia perché vorrebbe nascere a San Giovanni e invece nasce a Montevarchi. Mi immagino se giocava la San Giovannese e gli toccava la porta dalla parte di Montevarchi, era tutto a toccarsi, per dire, ci poteva venire fuori una polemica ulteriore. Comunque Mario, io volevo farti anche un'altra domanda, l'ultima probabilmente, e siccome noi spesso parliamo, anzi il nostro obiettivo è quello di ricercare la montevarchinità e quindi la tipicità dell'essere montevarchini attraverso la passione per la squadra, mi riallaccio al fatto che ti hai detto che vivi vicino a Brilliperi e quindi senti la passione anche durante le partite casalinghe, e che hai comunque vissuto in Montevarchi in un'epoca in cui gli sportivi hanno potuto godere anche di grandi vittorie e di grandi momenti. Facci una fotografia della passione dei tifosi e del modo in cui i tifosi percepiscono l'amore per la squadra che te hai potuto vedere in tutti questi anni a seguito dei Montevarchi. Quando facevo la Serie C ho girato a campi, insomma, di mezza Italia, e quindi ho conosciuto persone, ho conosciuto sportivi. Io credo che la passione e l'amore che hanno i montevarchini per la sua città, ma soprattutto per la città, forse un po' meno, ma direi per la squadra di calcio, è molto sentito. Vedo il mio giardino confina con gli ultras, quindi vedo le preparazioni settimanali, poi durante la domenica non ci sono, non raramente a vedere, però ecco, vedere la preparazione, l'amore che hanno per questa squadra, per questa società. Basti pensare, quando, non voglio parlare dei tempi belli, perché quando i tempi sono belli, i treni speciali organizzati, era molto facile. Ma il difficile era quando erano in seconda categoria, quando i Montevarchi erano in seconda categoria, vedere partire 1000 persone per andare a seguire, che so io, non dico la Traiana, ma diciamo Salutio, che era andare in questi paesi qui, c'era una certa difficoltà anche da parte dello sportivo, ma l'amore per la squadra, il voler bene a questa città, credo che i tifosi di Montevarchi non sono secondi a nessuno. Torna quindi Salutio alla memoria dei tifosi montevarchini, insomma Salutio non ce ne vorranno gli abitanti di Salutio, ma ormai è diventato il nostro caposaldo dei montevarchini e di Montevarchi, proprio per identificare e fotografare quello che peggio di così non ci poteva toccare di vivere. Insomma, la puntata di stasera termina qua, il nostro volo alla ricerca della montevarchinità però invece continua la prossima settimana, sempre grazie al mio compagno di viaggio, appunto alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie agli ascoltatori di Radio Bigord e grazie a Mauro Vannelli per gli splendidi ricordi che ci hai portato in trasmissione stasera. Io ringrazio voi, perché per me è stato un piacere ricordare una vita da sportivo, una vita passata insieme a una società bellissima, a dei dirigenti eccezionali, e quindi per me è stato veramente bello ricordare tutto. Ringraziamo anche il nostro regista di stasera, ovvero Ettore Scola, e per ultimo, ma non certo per importanza, il nostro santo subito Stefano Neri, che ci concede gli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi per registrare le nostre puntate. Grazie a tutti e a risentirci alla prossima settimana. Due fotografie mi sembra tutta la partita, perché due fotografie scattate in tutte venivano male. Non si attaccò mai. Ce l'ho C'è anche degli episodi bellini, perché per esempio in quella partita lì, quando entrarono in campo il Montevarchi in particolare, erano molto emozionati, alcuni giocatori andavano in campo di professionisti. E Gabella, mi ricordo, portiere di Montevarchi, scegliendo la porta, disse: no, no, io voglio l'aiuto, sono tutti, c'è la nostra figura, tutti rosso blu. Effetti era rosso blu, ma dice. Era fiducioso, pensava ce ne fosse parecchi. Una serie di aneddoti belli. Ricordo sempre la frase, azione del Montevarchi in contropiede, parte stilo sulla sinistra, ancora stilo, entra in aria, tiro rete, splendida rete dell'ex San Giovannese, stilo che porta in vantaggio il Montevarchi. Ecco, ex. Bastò dire, bastò citare la San Giovannese. In quel momento c'era lei. Perché noi questi derby si sono persi tutti, noi derby, quelli di Valdarno, non vado se la prima, seconda, tutti sono persi la categoria. Stefano! E te? Cineri vuole entrare. È un abitué delle incursioni estemporanee, Stefano Neri. Insomma, mi sa che mi arriva un bip quando si ringrazia per l'utilizzo della stanza. Ma essendo una sorta di entità superiore, lui probabilmente appare, scompare, sa quando apparire. Si fa la chiusura 5 minuti, un minuto e si sta. Santo subito.